c'è l'inverno. Israele e Palestina hanno il sangue come fiere e ripetono la storia di Caino contro Bene. Israele e Palestina, due popoli fratelli vicini senza pace. Israele e Palestina, un sogno. Rimane là, lascia il